Salve a tutti cari amici e benvenuti alla puntata numero 28 di Vagabondo in giro per il mondo. Anche oggi, mercoledì 26 aprile dell'anno politico 2017, al microfono per voi il vostro speaker Vagabondo Fumino. E quello che questa settimana ho, diciamo, fra virgolette, teorizzato, capito, mettiamolo un po' come vi piace di più, è che è preferibile spendere il tempo libero in maniera costruttiva, quindi con persone che ci fanno crescere, con persone che ci aiutano a capire le cose e anche noi stessi, dal nostro punto di vista, aiutare gli altri a fare questo. Ma non c'è mica bisogno di fare corsi o di andare a scuola o di mettersi sulla cattedra a dimostrare quanto si è più bravi o quanto si è più belli di qualcun altro, chiunque sia. No, c'è assolutamente niente di questo da fare, ma c'è una cosa molto importante da fare, importantissima, che vale a dire essere se stessi. In effetti, questo io l'ho teorizzato durante questi ponti primaverili, quelli del 25 aprile che è appena trascorso, e anche la Pasquetta, che chiaramente per moltissimi italiani e non è un giorno cruciale, quel giorno che più o meno dà il via alle danze dei fine settimana in giro, delle scorribande estive o primaverili che siano, e c'è lì chi preferisce la montagna, chi preferisce il mare, e c'è chi preferisce andarsene in città, chi approfitta e magari va a vedersi qualche museo che era un bel po' di tempo che avrebbe voluto andare a visitarlo ma che non aveva mai avuto il modo di farlo, e con un po' di fortuna in certi momenti dell'anno queste cose si possono fare addirittura gratis. È proprio un incentivo a fate quello che più vi fa stare bene, fate quello che più vi piace, e in effetti è così. Questo io l'ho un po' teorizzato da tempo, però ecco, ancora una volta, se così posso dire, ho avuto dei feedback positivi di ritorno da questo modo di fare, perché in effetti sentirsi in armonia, sentirsi in pace ricarica veramente le batterie, ricarica veramente le energie, per cui quando poi siamo chiamati al ritorno al tran tran generale, per qualcuno è lavorare, per qualcuno è studiare, per qualcuno è tediarsi a casa a non fare niente, però questo ognuno faccia quello che fa nella sua vita, non ci sono problemi, non è quello il discorso. Però aver passato, aver speso il tempo diverso, che chiaramente non è che una persona è difficile, che una persona dal, che ne so, dalla città, dal paese vada tutti i giorni al mare a farsi il mare, è difficile, quindi quando approfitta di farlo, però non è andare al mare per andare al mare. Cioè, se una persona si sente confident con se stessa, se una persona si sente realizzata, libera, se una persona riesce a ricaricare le batterie quando va al mare, che vada al mare. Se invece un'altra persona lo fa quando va in montagna, che vada in montagna. Personalmente, ma quello che è personalmente per me non è che è così importante, ecco, perché chiaramente ognuno ci abbiamo le sue. Però io alla fine sono nato alle pendici di un monte, e quando vado in montagna, come mi è capitato di fare per i ponti appena passati, boh, io mi sento effettivamente ricaricare. Non lo so, sarà il verde, sarà l'aria un po' più fina, sarà il freddo, la brezza, che comunque c'è il sole che scalda di più, non lo so, i sentieri, i paesaggi, gli animali, i rumori, io non lo so. Chiaramente se uno è nato in costa ci sta che per lui sia molto più lineare stare dove c'è l'acqua, se uno è nato dove c'è un lago vicino, e alla fine sembrano bischerate, sembrano cose campate in aria, ma è abbastanza ormai scientificamente provato che ne so, quello che vediamo quando nasciamo, appena nati, e quindi poi anche i rumori, ora al di là delle persone, chiaramente la mamma, il padre, i familiari, che chiaramente sono le persone prime che vediamo, però che ne so, le persone persone che sentiamo parlare, gli scenari che vediamo quando ci portano fuori. Alla fine siamo in carrozzina, immaginatelo un po', 2 mesi, chi capisce niente? Nessuno. E invece no, capiamo tutto, capiamo, forse siamo lì che siamo la spugna migliore della nostra vita. Chiaramente non ce lo ricordiamo dopo, perché non siamo pronti per ricordarselo poi in seguito quello che abbiamo visto quando abbiamo avuto 2 mesi, però lì si forma la persona. Dal primo momento, dai primi mesi, ora ho detto 2 mesi, ma va bene anche 2 giorni, cioè il giorno stesso che una persona esce dall'ospedale già a vedere, che ne so, le Alpi Dolomitiche o vedere il Mar Mediterraneo, e sarà diverso, si respirerà un'aria diversa, si sentiranno profumi differenti, si vedrà una natura differente. È chiaro che poi una persona è più incline a visitare certi posti piuttosto che altri, ma non a visitare nel senso stretto dell'ego, perché alla fine uno dice sì, mi sono fatto una bella vacanza in Thailandia, 2 settimane, guarda qui, apri Facebook e goditi le 1000 foto che ho messo su Facebook per fare invidia a chi? Al prossimo tuo, ma figurati, cioè se te sei andato in Thailandia per stare bene con te stesso, perché in Thailandia pensavi di poter star bene tutto quanto, ok, ci mancherebbe altro, ognuno vada e faccia quello che gli pare, dove gli pare, con chi gli pare. Però se uno va nei posti solo per poter dire guarda qui dove sono stato, perché poi uno torna, va al circolo dei filatelici e numismatici e agli altri gli dice sì, te sei stato a Castiglione della Pescaia anche quest'anno come tutti gli anni da 40 anni a questa parte, io invece quest'anno sono stato magari a che ne so, a Timbuktu, sono stato a Machu Picchu, è solo per fare invidia. Allora no, non è che così avete risolto un granché, però c'è chi lo fa, anzi probabilmente i più lo fanno, che viaggiano più o meno per ego. Però a parte questo, se riusciamo a individuare e a mettere in pratica quelle cose che ci fa stare bene fare, è l'arma vincente per tutti quanti, per ripartire pieni di carica, ripartire pieni di spirito, propositivi, sorridenti e rilassati, cosa che chiaramente non ci riesce perché i ritmi di vita sono talmente frenetici. Questo ormai nel viaggio del vagabondo l'ho ripetuto chissà quante volte, non mi stancherò mai di ripeterlo, probabilmente perché la credo una realtà inappuntabile questa, e che i ritmi di vita che siamo costretti a tenere sono frenetici, sono una cosa che non è umana e difficilmente faremmo a meno che non ce ne fossimo costretti. In ogni caso, quante volte vi capita a voi di provare questa cosa o di sentirla dire agli altri? La frase tipo è: hai visto? Ho lavorato tutto l'anno, mi sono fatta un mazzo così tutto l'anno e non ne potevo più, finalmente sono andato in ferie e sono tornato più stanco di prima. Ma quante volte si sente dire? Io lo sento dire veramente ad ogni tornata di ferie, c'è qualcuno che me lo dice, e a volte l'ho pensato anche io. E facciamoci delle domande: e perché è così? Ma dove sei stato in ferie? Ah sì, io mi guardo uno stress, sono stato a New York in ferie una settimana. Ma a New York che sei stato? Da stressato sei andato una settimana a New York a far che? A cercare di riposarti. Ma te c'hai qualche meccanismo che non va tanto bene, perché come fai a andare in uno dei posti più caotici del mondo e pensare di rilassarti? Perché minimo vai lì, che chiaramente so viaggi lunghi sia di tempo che d'aereo e tutto quanto, e vai lì e che vuoi fare? Non vai mica per riposarti, vai per vedere di tutto e di più, e è logico che te ne torni più stanco di prima. È logico che sì, ci avrai le tue paccate di fotografie da far vedere per fare invidia a quello e a quell'altro, ci avrai da raccontare di aver visto un taxi giallo, ci avrai, se sei stato a Londra, da raccontare che ci hai visto l'autobus rosso alto. Però se sei andato in ferie stressato dal lavoro che fai e tutto quanto, e sei andato a New York, sei andato a Londra, sei andato a Parigi, è chiaro che torni più stressato, torni più stanco, è chiaro che poi non riparti, dice mi sono tornato ieri l'altro e sono già stanco, morto, non ne posso più, non vedo l'ora di tornare in ferie. Ma se non vedi l'ora di tornare in un altro posto uguale a quello che ti ha fatto stare male, ma allora tanto vale che tu stia a lavorare. lavorare. Prenditi una settimana e stai a casa, riposati, vai a farti le passeggiate nel bosco, vai a farti le passeggiate in spiaggia, vai a farti le passeggiate sul lago, vai dove ti pare. Ma è chiaro che se a un ritmo frenetico di vita regolare ce ne aggiungi uno di tua volontà, e allora ciccio mio, ti piace sta frenetico, ti piace sta nel caos, e lamentarsi chiaramente lamentarsi non fa bene, ma chiaramente anche a me a volte mi scappa, quindi figuriamoci, io non è che sto qua a farvi gli insegnamenti della scienza infusa che non ho. Però siccome già che è molto difficile questa cosa controllarla, tenerla a bada nella vita regolare di tutti i giorni, quantomeno il tempo libero, quantomeno il tempo che scegliamo noi di passare con le altre persone, con la persona che amiamo, con gli amici, da soli, però il tempo libero cerchiamo di passarlo in una maniera che è decisa da noi per il nostro bene e non per soddisfare un ego che chiaramente ha bisogno di mangiare tutti i giorni anche se non ce ne accorgiamo, e nemmeno per soddisfare magari le aspettative di qualcun altro, che ne so, uno dice sì, ma perché mi hanno detto di fare questo e quell'altro, io però avrei fatto totalmente l'opposto, però ormai andavano tutti lì e sono andato anche io. È chiaro, se qualcuno, che ne so, un gruppo di amici, se in 5 vogliono fare una cosa e in 1 no, ci sta, è probabile che quei 5 tornino contenti di quello che hanno fatto, ma la persona che è partita già con il piede sbagliato molto difficilmente riuscirà a trovare un equilibrio e a riequilibrarsi lui per tornare con una felicità che magari in ferie o magari nei momenti di svago è legittimo per chiunque cercare. Quindi attenzione a essere oculati nella scelta di queste cose. Tra l'altro questi sono anche momenti molto belli da passare ad esempio con gli amici, da passare, che ne so, boh, fra coppie, da passare con la persona che si ama, ma anche perché si riescono a vedere nei momenti di svago certi aspetti delle persone che magari in altri momenti sono un pochino più celati, perché chiaramente durante il quotidiano tran tran è molto probabile che una persona in questo stile di vita che ci stiamo vivendo in questo periodo storico si svegli la mattina, si metta una maschera che non è la sua, che non è la sua faccia vera, esca di casa per affrontare la giornata, la cosa di lavoro e tutto quanto. Non è detto che sia un bene, non è detto che sia un male, però tante volte è così, e quindi le persone poi magari in certi momenti, osservandole, si riescono anche a capire meglio e quindi anche a rendersi conto meglio delle persone che ci circondano e chiaramente noi stessi, perché una persona che riesce a fare questo sugli altri, ma non per giudicare gli altri, solamente per prendere nota, diciamo così, per avere un quadro chiaro delle cose, è preferibile se prima di tutto questo esercizio lo fa su se stesso, perché chiaramente anche io, ad esempio, che me ne sono stato in ferie per il ponte del 25 aprile e per la Pasquetta, avevo una maschera diversa da quella che ho tutti i giorni, che ne so, durante il mio lavoro, ma che ho probabilmente anche in questo momento che sto parlando con voi. Di conseguenza, prima di tutto su se stessi e poi sugli altri, che è sempre preferibile per evitare il giudizio, perché se riusciamo a isolare su noi stessi certi comportamenti, quando poi li riconosciamo sugli altri ci riesce molto più difficile notarli con giudizio, magari con giudizio negativo, con giudizio positivo, non è importante se il giudizio è positivo o negativo, è il giudizio in sé che è preferibile evitare. Però se le cose le abbiamo già riconosciute su noi stessi, è molto più facile accettarle di buon grado anche sugli altri. E cari amici, nuovo appuntamento del Cafone Vagabondo, continuiamo il nostro viaggio sui vizi e le virtù di noi italiani, me per primo. E ancora, siccome ho ricevuto dei feedback positivi per avervi messo un po' alla berlina quando andate al bar, allora al bar restiamo. L'altra volta abbiamo parlato ovviamente di caffè, ma alla fine siamo italiani e quindi anche il cappuccino è materia da cafone, e chi lo vuole con parecchia schiuma, e chi lo vuole più caldo ma senza la schiuma, e chi lo vuole freddo, e chi lo vuole caldo, e chi lo vuole con più caffè, e chi lo vuole con meno caffè, e chi lo vuole in una tazzina di vetro, e chi lo vuole nella porcellana, e con la tazza calda, e con la tazza fredda, e col cioccolato sopra, e con la panna montata, e quello e quell'altro, e chi ci mette il cream caramel, e poi chi ci spruzza dentro mezzo barattolo di miele. Ce n'è per tutti i gusti, signori miei. È un cappuccino, è un cappuccino, perché si chiama cappuccino perché il cappuccio che la schiuma del cappuccino fa appunto ricorda il cappuccio dei frati cappuccini, e quindi è per questo che si chiama cappuccino. Se volete un cappuccino senza schiuma, non state tanto a stressare il barista, chiedetegli un caffè latte, che quello mette d'accordo tutti. Però invece no, siamo fatti così. Però attenzione, perché non siete voi che ho appena citato i veri cafoni di questo appuntamento, ma sono quelli del cappuccino 2.0, vale a dire quelli che me lo fa un caffè in tazza grande macchiato, il barista lo macchia, quelli lo guardano, bevono un sorsino, me lo macchiano altro poco e alla fine, pagando un caffè, si bevono un cappuccino. Che cafoni per risparmiare 20 o 30 centesimi. Cari amici, grazie di avermi ascoltato fino a qua. L'appuntamento, come sempre, è sulle frequenze di Radio Big World per mercoledì prossimo, e come sempre, fra un cappuccino e una scampagnata in attesa di quella prossima del primo di maggio, siate saggi!